Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Amministrative, dopo la sconfitta di Milano ancora nessun commento da Berlusconi e Bossi, il Partito Democratico festeggia Di Pietro, dice ora un'alleanza anche col terzo polo. E a Milano preferenze dimezzate per il Premier, Pisapia corteggia anche i grillini, la Lega invita ad abbandonare i temi nazionali però attacca nel centrosinistra, è una ammucchiata. Mario Draghi, candidato alla presidenza della BCE, accordo unanime oggi il passaggio all'Ecofin. Messaggio di Napolitano nella giornata mondiale contro l'omofobia, inammissibile, dice l'ostentazione di atteggiamenti contro gli omosessuali. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione. Dunque, in apertura parliamo ancora dei risultati e delle conseguenze del voto per le amministrative di domenica e di lunedì. Un test locale ma anche nazionale, così l'aveva voluto anche il Presidente del Consiglio Berlusconi, che soprattutto a Milano aveva voluto un referendum, così si è detto, su di sé. Naturalmente non è andata bene. Allora partiamo proprio da qua, dai commenti nella maggioranza. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Silvio Berlusconi non era di buon umore, ma lui sa scindere tra politica e calcio ed è sempre appassionato del Milan. È Adriano Gagliani, amministratore delegato della società calcistica, a commentare l'umore del Premier dopo le amministrative e la mancata presa di Milano. Gagliani ha passato ieri la sera ad Arcore assieme al tecnico rossonero Massimiliano Allegri. Ma nel PDL prevale lo spirito di rivalsa, almeno nel ballottaggio. La sconfitta del primo turno può essere ancora superata. Il terzo polo non esiste, dice il capogruppo Fabrizio Cicchitto. Stesso parere di Gaetano Quagliariello. Sentiamo Quagliariello. Un dato preoccupante al nord che evidenzia una questione settentrionale, come e Milano è certamente la punta dell'iceberg di questo fenomeno, dove noi aspettavamo un risultato migliore. Sono ancora aperti alcuni ballottaggi importanti, dovremmo in questi 15 giorni dare un segno di aver compreso il messaggio che l'elettorato ha inteso mandarci. Mentre da più parti si cerca di compattare il voto dei moderati, di guardare invece proprio a quel terzo polo che potrebbe essere determinante per Milano. Per il ministro Maurizio Sacconi il risultato della sinistra più radicale deve indurre tutti i moderati a riflettere e a unirsi attorno ai candidati moderati. Berlusconi è atteso qui a Roma, a Palazzo Grazioli. Ieri il portavoce Paolo Bonaiuti ha detto che avrebbe commentato oggi i dati. Umberto Bossi invece è arrivato a Via Bellerio a Milano, ma nessuna dichiarazione da parte di tutte e due i leader. E per il momento qui da Montecitorio è tutto per studio. Grazie Elisabetta Fiorito. E allora veniamo invece alle opposizioni che esultano: Partito Democratico, Italia dei Valori e Sinistra, Ecologia e Libertà. In una intervista Romano Prodi parla di un Ulivo che è tornato vincente. Da altre parti si sottolinea come le alleanze di centrosinistra siano sempre difficoltose. Allora facciamo il punto con Andrea Viali, buongiorno. Sì, buongiorno, un risultato clamoroso, così anche stamattina il segretario democratico Bersani ha definito l'esito del voto soprattutto in Lombardia, una regione dove la Lega accusa il colpo perché la linea estremista del PDL non paga. È l'analisi di un Bersani soddisfatto, anche perché il PD ha superato il Carroccio in diversi comuni. Il vento del nord sta cambiando, aveva detto anche ieri sera Bersani, sentiamolo. Al di là di tutte le possibili elucubrazioni, mi pare un dato evidente che questo risultato che si delinea segnala un'inversione di tendenza. Un po' ovunque, e dico in particolare con un vento del nord che si è alzato contro il blocco PDL e Lega. A Bersani e al suo partito questa mattina si è rivolto Antonio Di Pietro, che rilancia la necessità di costruire assieme un'alternativa al berlusconismo con un'alleanza allargata anche a sinistra, ecologia e libertà e terzo polo. Sentiamo le sue parole. Parte da Napoli e da Milano la costruzione di un'alternativa possibile al modello piduista di governo che ha portato avanti Berlusconi finora, e che pensi finalmente ai problemi reali del Paese. Agli prossimi appuntamenti, prima il ballottaggio e poi il referendum del 12 e 13 giugno, possiamo completare questa fase del berlusconismo. L'Italia l'Italia sta uscendo dal bozzolo del berlusconismo, sostiene oggi con il suo linguaggio colorito anche Nichi Vendola, il leader di Sinistra Ecologia e Libertà, molto soddisfatta per il risultato delle amministrative che ha premiato i candidati espressi dal suo partito. Sentiamolo. Credo che la felicità sia evidente, palpabile, perché è cambiato il vento, soffia forte forte ora un vento di pulizia, di cambiamento, anche di ribellione nei confronti della cifra di volgarità che ha toccato dei picchi particolarmente sublimi in questa campagna elettorale. L'Italia sta rompendo quel bozzolo opaco che è stato il berlusconismo. Grazie Andrea Viali, e adesso tutte le attenzioni si concentrano, molte attenzioni si concentrano sul terzo polo, un risultato elettorale per certi aspetti numericamente al di sotto delle attese, è stato detto, però il terzo polo sarà sicuramente determinante nei ballottaggi. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, è il momento allora del terzo polo, all'aggregazione politica di Casini, Fini e Rutelli guardano infatti centrodestra e centrosinistra in vista dei ballottaggi che si terranno tra due settimane, voti quelli raccolti ieri va detto non certo a due cifre ma che potrebbero essere comunque determinanti nelle sfide più delicate a partire da Milano e Napoli. Ma con chi si schiererà il terzo polo? La domanda non ha ancora una risposta, appoggeremo solo i candidati con certificazione di qualità, dice dall'UDC Casini, saremo l'ago della bilancia, avvisa dall'Alleanza per l'Italia Rutelli. Silenzio per il momento Fini, da Future Libertà il commento è affidato a Della Vedova, sentiamo. Mi sembrano risultati rivoluzionari che a Milano il partito di Berlusconi abbia gli stessi voti del partito di Bersani. Noi abbiamo scommesso allora sulla possibilità di costruire un'alternativa, lo stiamo facendo con il terzo polo e i risultati sono incoraggianti, non sono straordinari, ma sono risultati incoraggianti. È un primo solido mattone della fondamenta di una cosa che non può che crescere, mentre il PDL non può che decrescere. All'interno di Future e Libertà tuttavia si registrano delle divisioni, la corrente moderata che fa capo a Ronchi ed Urso chiede apertamente di schierarsi con i candidati del centrodestra, non faremo la ruota di scorta Berlusconi, avvisa tuttavia Bocchino. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, e sono due le città su cui si concentra l'attenzione adesso proprio per i ballottaggi e per quelli che potranno essere i possibili esiti, Milano e Napoli. Milano in vantaggio il centrosinistra, a Napoli invece situazione invertita. Partiamo da Milano, Pisapia ha ottenuto il 48%, la Moratti il 41,6%, da queste percentuali si ripartirà appunto per il ballottaggio, ma determinanti potrebbero essere e saranno gli altri candidati, allora ricordiamoli: Manfredi Palmieri 5,5%, terzo polo Mattia Calise 3,2%, Movimento 5 Stelle. Che cosa farà appunto il cosiddetto terzo polo e anche e soprattutto quali saranno le ripercussioni nel centrodestra dopo questa sconfitta che la Lega aveva in qualche modo subodorato, prendendo le distanze, almeno in parte, da Letizia Moratti? L'abbiamo chiesto in questa intervista a Matteo Salvini, intervenuto questa mattina a Radio 24. Salvini della Lega, sentiamo. Non metto sul podio la graduatoria degli eroi, sicuramente abbiamo sbagliato, altrimenti saremo qua a commentare una vittoria. Però a fine primo tempo, quando sei sotto di un gol, non è che vai a prendere col portiere, con l'attaccante, col centrocampista, ti ricarichi e adesso la partita è chiara, non ci sarà la scheda, ieri era un lenzuolo e 350 milanesi non hanno avuto motivazioni per venire a votare, evidentemente anche per demeriti nostri e per torti nostri di mille e una maniere, sicuramente non avremmo pensato di andare al ballottaggio con Pisapia in vantaggio, però se magari la smettiamo di parlare di tematiche nazionali, filosofiche, giudiziarie e parliamo della metropolitana che arriva al Lorenzeggio, che passa da Viale Zara, questa è l'occasione, perché ormai ci sono due scelte in campo, anche per chi non ha votato Moratti, magari non è andato a votare anche se è moderato in centrodestra per i toni della Moratti, per il famoso dibattito su Sky dove ha parlato del furto d'auto presunto di Pisapia e chi se ne frega. Ci sono due modelli di Milano molto diversi, la Milano in centrodestra e la Milano in Pisapia. Dal mio punto di vista Pisapia è una degnissima persona, giù il cappello per il suo risultato, la coalizione che sostiene dura sei mesi. E così dunque Matteo Salvini della Lega, i conti, dice ancora la Lega, li faremo esattamente tra 15 giorni dopo i ballottaggi. A Milano, come detto, si parte col centro-sinistra in vantaggio, a Napoli invece la situazione è rovesciata. Facciamo il punto proprio su Napoli, altra città importante. Paola Anania. Buongiorno, partiamo subito dai dati che hanno stabilito il ballottaggio tra due settimane tra il candidato dell'Italia dei Valori, De Magistris, e quello del PDL Lettieri. I dati, dicevamo, Lettieri, candidato del centrodestra 38,5%, De Magistris, Italia dei Valori 27,5%. Fuori dunque dal ballottaggio il candidato del Partito Democratico, il prefetto Morcone, è arrivato al 19,2%, e fuori il candidato del Terzo Polo, Pasquino, che ha comunque raggiunto un risultato non trascurabile, vicino al 10%. Il punto ovviamente oggi è capire gli orientamenti di voto in vista del ballottaggio. Il Partito Democratico dovrebbe orientarsi su De Magistris, ma stamattina il leader dell'Italia dei Valori, Di Pietro, lo sentivamo anche prima, ha detto sì a un'alleanza col Partito Democratico, ma nel caso di Napoli solo a fronte di una discontinuità con l'amministrazione Iervolino e Bassolino, una dichiarazione non proprio distensiva. Sulla possibilità che il Partito Democratico si schieri con De Magistris, invece questa è l'opinione di Lettieri, il candidato del PDL, sentiamolo. I napoletani è un elettorato maturo e capisce, a parte il voto di protesta che è stato fatto all'inizio, capisce che Napoli ha bisogno di essere governata e per essere governata non basta la demagogia. Io non credo proprio che l'elettorato riformista del Partito Democratico voti De Magistris, onestamente ho difficoltà a crederlo. Il Terzo Polo non si esprime in attesa della riunione di domani dei vertici nazionali, ma sentite cosa ha detto il candidato di Futuro e Libertà Raimondo Pasquino, intervistato questa mattina durante lo speciale di Alessandro Milan e Giuseppe Cruciani. Scusi Pasquino, lei che è rettore dell'Università di Salerno, no? Sì. Che voto dà la campagna elettorale di Lettieri? Un 3 meno meno. In trentesimi, rettore, scusi. Trentesimi, sa quando si dà la boccia? Tre trentesimi. Così. E De Magistris? C'ha un 28. Sappiamo per chi vota. Uno che prende 11 punti in più dei voti dei partiti che lo hanno appoggiato, che prende il 16% come liste quando di partenza ne aveva 10, ma lei pensa che può pigliare meno di 28? Rispettando la par condicio, sentiamo invece le dichiarazioni di questa mattina di De Magistris. Io credo che quello che è accaduto a Napoli è enorme. Forse non si è ancora colto a livello nazionale l'importanza di questo voto, un movimento popolare di tutti i ceti, in tutti i quartieri, intellettuali, borghesia, giovani, operai, lavoratori, disoccupati. Per me è una grande responsabilità, è un grande motivo, diciamo, di metterci ancora più forza e passione per vincere. Dunque, questa è dunque la voce di De Magistris. Segnaliamo in chiusura, Alessio, la polemica interna al Partito Democratico. Il candidato del PD escluso, dicevamo, Morcone, contro la Iervolino, che è il sindaco del PD uscente. Morcone aveva detto che la sconfitta del PD era legata alla pessima gestione da parte della Iervolino, che risponde: Morcone sia più umile, non sparo sulla Croce Rossa. Grazie Paola. Insomma, nonostante siano freschi di buoni risultati, in casa del Partito Democratico non tira un'aria tutto sommato tranquillissima. 13:17 minuti, GR24, ben ritrovati. Nella prima parte abbiamo parlato soprattutto delle elezioni amministrative, risultati e conseguenze dopo la sconfitta a Milano. Ancora nessun commento da parte di Berlusconi e Bossi, mentre il Partito Democratico festeggia e Di Pietro dice ora un'alleanza anche con il Terzo Polo. A Milano preferenze dimezzate per il Premier Berlusconi. Pisapia corteggia anche i grillini. La Lega invita ad abbandonare i temi nazionali e attacca nel centro-sinistra. È una mucchiata. E prima di passare alle altre notizie della giornata, facciamo ancora il punto per un attimo con Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Allora, la prima sensazione che si ha è proprio quella di una sconfitta per Silvio Berlusconi, preferenze dimezzate a Milano, candidato sindaco in svantaggio, una situazione che solo qualche tempo fa nessuno avrebbe immaginato, Stefano. L'inizio della fine di una stagione politica, secondo te? Ma secondo me, nel senso che una stagione come quella che abbiamo conosciuto per 17 lunghissimi anni qualche misura si sta concludendo. Non è casuale che tutto questo avvenga a Milano, poteva accadere solo a Milano in precedenti aspetti. Poi che cosa avverrà dopo e nemmeno esattamente come si svolgerà questo tramonto di cui scorgiamo i contorni, questo è ancora un po' tutto da vedere. È chiaro che però io penso che da qui ai prossimi mesi, per non dire le prossime settimane, qualcosa accadrà che riguarda necessariamente il rapporto tra Berlusconi e la Lega, è lì il punto cruciale, non tanto per, come dice in maniera un po' così approssimativa il segretario del Partito Democratico, che la Lega dovrà staccarsi da Berlusconi, non accadrà in un modo così semplice, però indubbiamente l'idea che si potesse continuare con questa legislatura fino al 2013 come se nulla fosse, che era l'idea che accarezzava Berlusconi dopo il risultato di ieri sera, è finita. Come vedi invece, Stefano, la situazione dall'altra parte nelle opposizioni, perché se Berlusconi ha perso, la Lega arretra e quindi non può in questo caso attestarsi un grande risultato, e soprattutto nell'opposizione appunto il Partito Democratico, che pure conquista con suoi candidati Torino e Bologna, va al ballottaggio a Milano e Napoli con candidati di Sinistra Ecologia e Libertà, cioè di Vendola e dell'Italia dei Valori. Festeggio naturalmente, perché dopo tanti anni di frustrazione si può capire, è stato un grande momento quello di essere liberatorio, però in realtà l'opposizione deve ancora costruire tutto. Se pensano che l'alternativa sia dietro l'angolo e che la difficoltà, la crisi, forse il tramonto di Berlusconi gli consegni l'Italia su un piatto d'argento, si sbagliano. La sinistra di governo deve essere costruita dalle radici e siamo soltanto alle premesse. Il rapporto con Di Pietro è complicatissimo, il rapporto con Vendola è altrettanto complicato, ci ricordiamo le esperienze dell'Ulivo prodiano, no? Le grandi difficoltà che ebbe Prodi a governare con una coalizione eterogenea. Il rapporto col terzo polo, che esce male da queste elezioni, è tutto da scoprire. Quindi io credo che un atteggiamento corretto sarebbe quello di dire: benissimo, è successo qualcosa di importante, il quadro politico è stato terremotato, però adesso il percorso della sinistra che vuole diventare alternativa credibile di governo comincia soltanto oggi. Stefano, in chiusura velocissimamente, se te la senti di fare una previsione su Milano e Napoli, se hai una tua previsione su chi scommetti. Le cose, fermo restando che i ballottaggi possono dare anche delle sorprese, è chiaro, però in questo momento Pisapia è molto favorito a Milano, mentre a Napoli io vedo che Lettieri ha ancora, cioè il centrodestra, ha ancora il margine di vantaggio, sì. Grazie Stefano Fogli, editorialista del Sole 24 Ore, e chiudiamo questa lunga pagina dedicata ai risultati del test delle amministrative di domenica e lunedì. Adesso parliamo di tutt'altro argomento, dell'Ecofin che si riunisce oggi. I ministri economici dei 27 paesi europei designano Mario Draghi, il governatore della Banca d'Italia, come futuro presidente della BCE. Un passaggio tecnico, sul tavolo però c'è anche il dossier Grecia. Allora facciamo il punto con Dino Pesole. Un importante risultato, quello della designazione all'unanimità del governatore della Banca d'Italia e presidente del Financial Stability Board, Mario Draghi, alla sostituzione di Jean-Claude Trichet alla Banca Centrale Europea. E poi una serie di interrogativi che ancora pesano sul futuro della Grecia, perché ancora non è stato raggiunto sostanzialmente un accordo sul percorso da utilizzare per sostenere le disastrate casse elleniche. La riunione dell'Ecofin è ancora in corso, probabilmente terminerà tra un'ora, un'ora e mezza, e certamente il risultato più rilevante, oltre alla designazione di Draghi, è l'accordo che è stato raggiunto sul prestito al governo portoghese per 78 miliardi di euro. Accordo raggiunto già ieri sera in sede dell'Eurogruppo e formalizzato questa mattina dall'Ecofin. Mentre sulla Grecia la discussione è tuttora in corso, perché tra i paesi non si è raggiunto l'accordo su come scadenzare, come si dice in termini tecnici, il debito pubblico della Grecia nei prossimi mesi, con le scadenze già previste. In discussione proprio in questi minuti c'è però anche l'annosa questione delle vendite allo scoperto. Probabilmente c'è da attendersi una decisione già a fine riunione. E da Bruxelles è tutto, vi restituisco la linea. Benissimo, grazie allora anche a Dino Pesole da Bruxelles. Sempre per l'economia parliamo del mercato dell'auto, meno 3,8% in Europa ad aprile. Fiat va ancora peggio. Andrea Malan, che succede dalle parti di Torino? Sì, buongiorno a tutti. Beh, Fiat ha perso in termini percentuali il doppio del mercato, cioè il 7,7% nel mese di aprile, un calo che effetto di due fattori. Innanzitutto il mercato italiano continua ad andare male, peggio degli altri, questo lo sapevamo già. Anche sul mercato italiano Fiat va peggio dei concorrenti, ma anche tutti gli altri mercati europei, che pure non vanno bene, con un meno 4 nel mese. Il gruppo torinese ha perso il 6,8%, frutto di una gamma di modelli abbastanza invecchiata con poche novità. L'unica di rilievo è la Giulietta Alfa Romeo lanciata l'anno scorso. Non a caso il marchio Alfa Romeo è di gran lunga quello che va meglio per il gruppo Fiat, ed è riuscito questo mese a riportare la quota in Europa all'1,1% dallo 0,7% dell'anno precedente. Grazie Andrea, siamo un po' di fretta, allora passiamo a un altro argomento. Il messaggio del Capo dello Stato in occasione della giornata mondiale contro l'omofobia, ha detto Napolitano: non bisogna sottovalutare i rischi che l'abitudine all'uso nel discorso pubblico di allusioni irriverenti, lesive della dignità delle persone, contribuiscano a nutrire, ha detto Napolitano, il terreno sul quale l'omofobia si radica. E chiudiamo con le assise dei giovani agricoltori della Coldiretti, una riunione importante perché è stato fatto il punto su un settore che in 10 anni ha creato posti di lavoro, 250.000 per l'esattezza. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. L'agricoltura è un settore che può offrire grandi opportunità ai giovani. Nonostante la crisi, aumenta l'occupazione nelle campagne, dove si registra un più 2% nel 2010, contrapposto al meno 3% dell'industria. In totale, rileva la Coldiretti, sono 28.000 le nuove imprese agricole nate nel 2010. Un'agricoltura che richiede sempre più elevati livelli di professionalità, di capacità di innovare, che quindi ha bisogno proprio del potenziale creativo dei giovani. Quindi in questa prima assemblea, che riunisce oltre 2.000 giovani agricoltori under 30, si parla sì di agricoltura tradizionale, ma anche e soprattutto di fattorie didattiche, di agri asili, di agri ospizi, di trasformazione dei prodotti della terra in salumi, gelati e persino cosmetici. Ma c'è da dire, come ha sottolineato il presidente dei giovani della Coldiretti, Vittorio San Giorgio, che sono ancora troppe le difficoltà che incontra un giovane che vuole aprire un'impresa agricola, dall'accesso al credito all'eccessiva burocrazia e poi soprattutto un certo pregiudizio per cui l'agricoltura viene comunque marginalizzata. E da Roma per ora è tutta, a voi la linea. Grazie Alessandra Schepisi. 13:26, è tutto per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio, Fabio Cantadori in regia, vi augurano buona giornata e buon proseguimento con i programmi di Radio 24. GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini.